vita. Fu capriccio, ma che giova che mora, che giove in tempo, perdono gli do. La mia fede vi tieni, oh signora, e la mia fede giammai caglierà. Deste, io giurai la sua morte.